23. Minestra di nocciole di semolino. Latte decilitri 3, semolino grammi 100, parmigiano grattato grammi 20, uova uno intero e un torlo, burro quanto una noce, sale quanto basta, farina idem, odore di noce moscata. Mettete il latte al fuoco col burro e quando bolle versate il semolino a poco, salatelo. Quando è cotto e caldo ancora, ma non bollente, scociategli dentro le uova, aggiungete il parmigiano e l'odore e mescolate. Lasciatelo ghiacciar bene e poi versatelo sulla spianatoia sopra ad uno strato di farina. Avvoltolatelo leggermente sulla medesima, tirandone un bastoncino che taglierete a pezzetti uguali per farne tante pallottole della grandezza di una nocciuola. Gettatele nel brodo quando bolle e poco dopo versatele nella zuppiera e mandatele in tavola. A vostra norma vedrete che assorbiranno da 25 a 30 grammi soltanto di farina. Ma poi dipenderà il più e il meno dal come riesce il composto. Questa dose potrà bastare per 5 o 6 persone.